Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona domenica a tutti, benvenuti a tutti noi in agosto, finalmente agosto, primo di agosto. Voglio cominciare con un tema un po' leggero, con delle cose un po' leggere, visto che oramai è periodo anche di vacanza. Secondo voi è vero o falso che l'amore allevi il dolore? Ed è vero o falso che usiamo solo il 10% del nostro cervello? Ed è vero o falso che le donne parlino più degli uomini? Sono tutte domande che si è posta Margherita Zannoni sul numero di Focus che trovate in edicola proprio per il mese di agosto. Ci sono anche delle risposte sorprendenti, perché andando a confrontare quelle che sono le nostre convinzioni, le convinzioni radicate e le risposte invece più scientifiche, riceviamo delle smentite anche solenni. Non così per il fatto che l'amore allevi il dolore, perché questo è vero, lo ha dimostrato, scrive appunto la Zannoni su Focus, una serie di esperimenti dell'Università della California, esperimenti su un gruppo di 25 donne. Attraverso un dispositivo i ricercatori hanno indotto calore all'avambraccio fino a provocare dolore, ma si sono accorti che se queste donne che si erano sottoposte al test tenevano per mano il fidanzato, allora erano in grado di sopportare lo stimolo doloroso molto più a lungo e sentivano meno dolore anche solo guardando la fotografia del proprio partner. Quindi questo addirittura significa che non è necessaria la presenza fisica della persona amata, ma solo a pensarla può avere il potere di alleviare le sofferenze. È invece assolutamente falso che noi si usi solo il 10% del nostro cervello. E infatti ci sono delle tecniche di scansione cerebrale che hanno mostrato che non esistono delle zone inattive del cervello, che anche i compiti più semplici coinvolgono vaste aree cerebrali. Il cervello costituisce solo il 2-3% del nostro peso, ma consuma oltre il 20% dell'ossigeno che respiriamo, e quindi difficilmente l'evoluzione ci avrebbe permesso un tale dispendio di risorse per un organo che poi avremmo utilizzato così poco. Questo mito di usare solo il 10% del cervello è nato in realtà da un'errata interpretazione di alcune ricerche. Poi sì, un altro di tutte queste domande che vengono indicate sotto il titolo generale di psicobufale, la gelosia acceca, è vero o falso? Forse non ci crederete, ma è vero, perché secondo un altro esperimento fatto negli Stati Uniti dall'Università del Delaware, hanno fatto questo esperimento molto curioso. I partner hanno messo un gruppo di donne al computer e c'erano i loro partner impegnati su un computer vicino. Quando agli uomini era chiesto di giudicare foto di donne attraenti, le loro partner peggioravano le prestazioni al computer, quindi erano distratte, erano in qualche modo accecate dal fatto che il loro uomo si concentrasse sull'immagine di un'altra donna. E infine, forse la cosa che vi incuriosiva di più, ma è vero o falso che le donne parlino più degli uomini? Ebbene, tocca dirlo, è falso. C'è stato uno psicologo dell'Università dell'Arizona, si è messo ad analizzare le conversazioni di 400 studenti di college. Ne ha ricavato questo dato: uomini e donne dicono circa 16.000 parole al giorno e non ci sono delle differenze quantitative. Ci sono invece delle differenze qualitative che vengono segnalate. Le donne sono infatti più attente ai segnali non verbali e sono più brave a comprendere le emozioni espresse dai volti altrui. Tra l'altro, riferisce sempre Focus, interrompono anche di meno, a meno che non si tratti di donne che hanno incarichi di comando. Allora, in quel caso sì, interrompono più spesso e, secondo lo studio del dottor Mattias Mell, parlano anche di più degli uomini. Infine, le donne sono più aperte, cioè parlano di se stesse con maggiore facilità rispetto a quanto facciano invece gli uomini. E allora, visto che erano un po' tutti luoghi comuni, io voglio passare da una cosa leggera a una cosa un po' meno leggera. Su Vanity Fair questa settimana la copertina è dedicata a Roberto Saviano. Roberto Saviano, autore di Gomorra, scrittore che, come dire, ha suscitato anche delle polemiche, delle critiche, forse appunto per un malinteso senso del suo successo, che in qualche modo gli deriva dal fatto di aver avuto avuto il coraggio di rivelare qual è la capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nella nostra vita di tutti i giorni. C'è una lunga e bella intervista a Roberto Saviano proprio su questo numero di Vanity Fair, l'intervista è di Silvia Nucini e si intitola "Volevo solo diventare uno scrittore", quindi Saviano cerca di precisare, anche di smontare un po' i luoghi comuni, quelli sì molto più pericolosi rispetto a quelli che abbiamo segnalato prima, che possono essersi annidati, possono essersi raccolti attorno alla sua persona. Tra l'altro Roberto Saviano ha 30 anni, da 4 anni vive sotto scorta, quindi è una persona che in qualche modo non ha più una vita normale per aver avuto appunto il coraggio di denunciare uno stato di cose che non era evidentemente così noto a tutti. Tra l'altro gli si chiede, a proposito anche di recenti vicende di cronaca e di politica, ci sono dei tentativi spesso di delegittimare in qualche modo gli nemici, gli avversari, il meccanismo della delegittimazione, chiede Lanucini, qualcosa che lei conosce bene. Dice Saviano: benissimo, conosco questo metodo, sì, perché il Tribunale di Napoli ha appena condannato per il reato di plagio coloro che mi accusavano di aver plagiato. Le cose che ho raccontato in Gomorra venivano liquidate da alcuni dicendo: sono cose note, le hai prese in giro, le hai copiate dagli articoli degli altri, mi hanno fatto causa, hanno perso. Ma ovviamente il loro scopo non era vincere il processo, ma delegittimarmi, che è una cosa che in terre di mafia funziona benissimo, perché lì le organizzazioni criminali riescono a gestire il giudizio sulle cose. Ecco, questo mi sembra una delle frasi più belle dell'intervista, cioè il fatto che ci sia qualcuno che a fini criminali possa gestire il giudizio che ci facciamo sulle cose. Chiede ancora Nucini: ma perché funziona la delegittimazione? La risposta di Saviano è: la maldicenza c'è sempre stata, adesso siamo di fronte a una sua nuova forma, il cui presupposto è che siamo tutti poca cosa, siamo tutti, quindi nessuno ha il diritto di giudicare gli altri. Allora chi è in odore di camorra cerca di far passare anche un altro per camorrista, camorrista io, camorrista lui, e pari siamo, e così via, insomma. E questo è il meccanismo con cui poi si delegittima l'avversario. Però, continua Saviano, non deve passare il principio per cui tutte le contraddizioni, tutti gli interessi sono uguali. Il problema non è quali scelte fai, ma se quelle scelte che fai ti rendono un uomo ricattabile. E questa è poi anche la fondamentale differenza, diciamo, tra l'essere corretti, tra rimanere nella correttezza e invece l'uscirne. Infine, una polemica molto recente che c'è stata, in realtà il libro di Saviano, che ha venduto 3 milioni di copie in Italia, 5 milioni di copie nel mondo, questi dati di Gomorra, è stato pubblicato in 53 paesi. Di questo libro è stato detto: ma in realtà dà una pessima immagine dell'Italia, quindi è criticabile, è censurabile. Questa è la risposta di Saviano. Dice: forse chi parla così non ha letto Gomorra, perché io racconto soprattutto storie di resistenza. Se è quando stiamo zitti che diamo una cattiva immagine del paese. Un giorno mi piacerebbe spiegare che raccontare del potere criminale ha significato dire al mondo che non siamo un paese di omertosi e che il miglior apporto che si possa dare a un paese è quello di non nascondere i suoi problemi. Con questo rispondendo tra l'altro anche a un attacco che gli era venuto proprio da Marina Berlusconi, che dirige peraltro la casa editrice Mondadori, per i tipi per la quale Roberto Saviano appunto pubblica i suoi libri. C'è un altro libro di cui vi voglio parlare, questa volta edito dal Sole 24 Ore, dal Gruppo 24 Ore. L'autrice è una collega, Silvia Pieraccini, si chiama L'assedio cinese, lo trovate in libreria proprio in questi giorni. È una seconda edizione aggiornata della cronaca, dell'analisi che Silvia Pieraccini fa del distretto degli abiti low cost di Prato. Questo distretto è un distretto particolare perché è un distretto che viene definito appunto senza regole. Da qui l'assedio cinese. L'introduzione, già nelle prime righe, fa capire un po' il tono del libro. Dice: non vogliamo diventare come Prato. L'allarme per l'espansione dell'economia illegale, questo ohimè si collega anche bene, se vogliamo, alle storie che ci racconta Saviano. L'allarme, dicevo, per l'espansione dell'economia illegale cinese attraversa ormai tutta l'Italia, dal Veneto all'Emilia Romagna fino alla Puglia, si insinua nei distretti industriali del mobile, della pelletteria, della maglieria, dei divani. accresce le paure scatenate dalla crisi e alimenta i timori di concorrenza sleale. Il distretto di Prato è diventato in qualche modo un benchmark, è diventato un simbolo di tutto questo. Quel distretto, scrive ancora Silvia Pieraccini, è stato raccontato per la prima volta con tutta la sua dirompente forza economica in questo libro inchiesta nel 2008. Ora, questa nuova edizione perché? Perché a distanza di 2 anni il distretto è cambiato, è cresciuto in aziende, in addetti, in mercati, mentre gli altri distretti dimagrivano sotto i colpi della crisi, e poi ha mostrato anche una grande forza, una grande capacità di resistenza ai controlli delle forze dell'ordine che si sono intensificati, e ha trovato anche nuove strade per sfuggire alle sanzioni, tra l'altro mantenendo inalterata una gigantesca fetta di business illegale vicina ormai al 50%. Questo dall'introduzione di Silvia Pieraccini al libro L'assedio cinese per i tipi del gruppo 24 ore, lo trovate in edicola proprio in questi giorni. Domani invece troverete con Il Sole 24 Ore, proprio con il quotidiano, voglio dire, questa volta, una guida che è una guida che abbiamo fatto a tempo record per spiegare le novità del codice della strada. Come sapete, da ieri, anzi più precisamente dall'altro ieri, sono in vigore alcune delle molte novità introdotte nel codice della strada. Allora, per capire esattamente che cosa è successo, Il Sole 24 Ore propone domani in regalo nelle sue pagine, nella edizione del lunedì che troverete in edicola, una analisi per vari argomenti, per destinatari, e naturalmente anche un'utilissima tabella, una grande tabella in cui vengono riassunte le sanzioni, le nuove sanzioni, quanti punti si possono perdere per ogni tipo di infrazione e così via, quali sono i nuovi importi delle multe. Come sapete, parecchie cose sono mutate, ad esempio su Altro Consumo di questa settimana si ricorda che ci sono state delle novità di cui si è parlato ma che poi non sono diventate legge, ad esempio non è diventato obbligatorio il casco per chi va in bici, neanche per i ragazzi fino a 14 anni. In realtà c'è stato un momento in cui sembrava che così potesse avvenire. Così come non è stato reso obbligatorio il seggiolino per chi trasporta su un motociclo un bambino. Invece diventa obbligatorio, questo sì, per locali di esercizi pubblici possedere gli etilometri. Ma ripeto, tutto questo e molto altro delle tante modifiche che sono appena intervenute nel codice della strada le troverete raccontate sul Sole 24 Ore di domani all'interno della nostra guida. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. C'è un argomento che nasce da un dato di cronaca che è stato ripreso da più di un settimanale in Italia. Sto parlando dei dati sui divorzi. Innanzitutto, anche su Sorrisi e Canzoni TV, tanto per citare uno dei settimanali che poi si è rifatto questo argomento, si segnala questa crescita di separazioni e divorzi. In una delle finestre che compaiono nella rubrica curata da Franco Bagnasco è accaduto, sta nelle prime pagine appunto di Sorrisi e Canzoni TV, se leggete abitualmente questo magazine, si dice appunto: nel bel paese le separazioni e i divorzi crescono, 84.165 nel 2008 le separazioni, 54.351 i divorzi, con un incremento rispettivamente del 3,4% e del 7,3%. Questi dati provengono dall'Istat, che ha anche segnalato che in 15 anni le separazioni sono raddoppiate, cioè più 101%, i divorzi sono oltre una volta e mezza, nel punto sempre nello spazio di 15 anni, più 61%. Ancora, nel 70,8% delle separazioni e nel 62,4% dei divorzi si è trattato di coppie con figli. Infine, quello che forse è il dato più interessante, infatti poi viene ripreso anche da altre testate. Le crisi coniugali coinvolgono sempre di più le unioni di lunga durata. Risultano più che raddoppiate le separazioni che avvengono dopo 10 anni di matrimonio, e quelle oltre i 25 anni sono quasi triplicate. Naturalmente, essendo prima con numeri molto bassi, era facile anche che ci fosse un incremento statistico importante. Tuttavia il dato in qualche modo fa pensare. E il rapporto poi dell'Istat concludeva dicendo: entrambi i fenomeni sono in crescita, siamo di fronte a un effettivo aumento della propensione alla rottura dell'unione coniugale. È stata interpellata Anna Maria Bernardini De Pace, che è una notissima avvocato divorzista, che dice: è l'epoca dei divorzi grigi. Ecco, i divorzi grigi sembrano un po' questa tendenza sociale, dice, le chiedono quali riflessioni può fare su questi dati, colpisce quello dell'aumento delle separazioni dopo 25 anni di unione. Altro che crisi del settimo anno, noi oramai le abbiamo soprannominate divorzi grigi. Come lo spiega, risponde l'avvocato Bernardini De Pace, la vita media è cresciuta, con lei la vitalità, il desiderio, la possibilità di ricominciare. Oggi si possono avere due o tre vite, due o tre divorzi, in particolare gli uomini, le donne spesso hanno da accudire nipoti o genitori, rimangono più sole. E dall'ultima affermazione, per una domanda un po' provocatoria, dice: ma allora siamo a unioni usa e getta, non si aggiusta più? No, anzi, le separazioni sono sempre scelte meditate, scelte sofferte. I matrimoni spesso sono frutto di scelte affrettate. Questa è la riflessione di Anna Maria Bernardini De Pace. Ma accanto a questa riflessione, allora, colpisce notare come sull'Espresso di questa settimana della questione si occupi anche Eugenio Scalfari. Eugenio Scalfari che parte proprio solo da questo dato dei cosiddetti divorzi grigi. La terza notizia, le prime due sono sull'aumento dei divorzi e sulla durata media delle unioni, la terza notizia che merita di essere segnalata consiste nell'età dei divorziandi. I picchi sono due, tra i 25 e i 30 anni, tra i 60 e i 65 anni. E allora c'è di che commentare. Il dato più difficile da capire, scrive Scalfari, riguarda il picco dei divorzi tra sessantenni. Perché decidono di separarsi in un momento della vita che coincide con l'ingresso nella fascia dei pensionati, comunque degli anziani, affrontando quindi anche l'evidente difficoltà di trovare un nuovo partner e quindi di dover organizzare una vita da singoli, che specie per l'uomo è più complessa. Ragionare su dati macroscopici diventa a questo punto molto difficile, prosegue Scalfari, occorre dunque spacchettare le diverse situazioni per capirci qualcosa di più. Intanto influisce il tema dell'età dei figli, se figli ci sono. Coniugi sessantenni hanno probabilmente figli di almeno 30 anni, ai quali è molto più facile comunicare la separazione dei genitori senza causare i traumi che colpiscono invece i figli bambini. Poi c'è l'egoismo tutto maschile, ammette Scalfari, di vagheggiare una moglie o comunque una compagna più giovane della moglie sessantenne. Al tempo stesso però può giocare un'altra considerazione. I sessantenni di oggi, sia uomini sia donne, sono incomparabilmente più giovani, anzi più giovanili, dei sessantenni di ieri. È una constatazione che tutti facciamo ogni giorno, che induce chi decide di divorziare a quell'età a considerare in modo meno drammatico la ricerca di un nuovo partner. Queste considerazioni, è il prosieguo del commento di Scalfari sull'Espresso, diverse tra loro e anche in parte contraddittorie, ci fanno capire probabilmente meglio il picco dei divorzi tra sessantenni che un tempo avremmo liquidato come un errore statistico. Del resto anche la durata di vita si è notevolmente allungata e questa è un'altra ragione dei divorzi ritardati. L'articolo, poi il commento di Scalfari, perché fa parte della sua rubrica intitolata Il vetro soffiato, si allarga anche ad altre considerazioni sulla crisi della famiglia tradizionale, nel senso appunto intesa in modo tradizionale e quindi presumibilmente per tutta la durata della vita. Oggi, dice lui, ci troviamo in presenza più di una famiglia allargata in senso orizzontale, aperta cioè a quelli che sono stati coniugi in precedenti matrimoni, che frequentano abitualmente il nuovo nucleo familiare, quindi mettendo insieme i figli di letti diversi. Queste le considerazioni di Scalfari su questi dati sui divorzi. Un altro fenomeno assolutamente dei nostri tempi è poi quello delle badanti. Del resto si collega direttamente in qualche modo alle cose che stiamo dicendo. L'età, appunto, l'aspettativa di vita si allunga, si è più giovanili indubbiamente, però poi viene anche il momento in cui si ha bisogno di qualcuno che si occupi di noi, e questo è il tema a cui viene dedicato un articolo da Famiglia Cristiana, articolo di Rosanna Biffi e Orsola Vetri, che ci segnala anche alcuni dati sulla presenza delle badanti in Italia. Allora, ci sono innanzitutto, secondo i dati dell'Istat, 2.600.000 italiani non autosufficienti. Di questi, tre quarti sono anziani, il 76,9%, e ci sono diciamo contabili, valutabili, 774.000 badanti, il 90% delle quali, quindi 9 casi su 10, sono straniere. La spesa per le calcolata per le famiglie per le badanti è di 9 miliardi di euro, quindi un impegno notevole non solo naturalmente dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista economico. C'è un contributo di Andrea Olivero anche, che viene sentito proprio da Rosanna Biffi, presidente delle ACLI, l'Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani. Dice: avere in casa un buon assistente familiare viene considerata una grande fortuna. E infatti le ACLI si sono impegnate in un progetto di formazione e di inclusione che ha coinvolto una sessantina di badanti straniere, le famiglie che le occupano, nelle città di Udine, di Roma e di Napoli. Che cosa hanno cercato di fare le ACLI? Innanzitutto, spiega Olivero, mettere queste persone straniere nelle condizioni di andare incontro all'altro con corsi di italiano, conoscenza del nostro paese sul piano culturale e storico, ma anche nel tempo libero. Quindi visite nelle città dove lavorano, ritrovi tra donne che svolgono gli stessi compiti, corsi di computer per comunicare via internet magari con i parenti lontani. Molto spesso le famiglie erano disponibili a mettere a disposizione il loro computer, cui scattavano poi relazioni di dialogo e di amicizia. E quanto poi al miglioramento della preparazione professionale, abbiamo fornito dei percorsi sia con elementi basilari come cucina e tenuta della casa, sia insegnamenti più specifici relativi appunto alle questioni sanitarie. Tutto questo però, queste 700.000 famiglie che hanno una badante straniera, tra l'altro ci segnala appunto Rosanna Biffi, preferiscono magari parlare di assistente familiare, sia appunto i soldi che vengono spesi, poi serve anche a farci notare che c'è uno scarso sviluppo, come noto Orsola Vetri, di un welfare pubblico per l'assistenza alla terza età, e prevale tutto sommato una cultura in cui la famiglia continua ad avere un ruolo importante, determinante nella cura delle persone. Sono le osservazioni raccolte da Orsola Vetri, sono osservazioni di Maurizio Ambrosini, sociologo delle migrazioni all'Università di Milano. Al professor Ambrosini viene anche chiesto: ma che differenza c'è tra l'essere assistiti da una badante piuttosto che da un parente? E la risposta è molto bella, dice: ma in realtà chi cura poi diventa un parente, perché l'anziano trova qualcuno con cui parlare e a cui rivolgersi. Anche nell'immigrato che vive lontano dalla sua famiglia subentra una vera affezione. Attenzione, c'è anche un lato oscuro: la rottura del rapporto di lavoro può essere vissuta come un tradimento, un divorzio con degli strascichi conflittuali, quasi si trattasse appunto di un familiare che gira le spalle, non di un lavoratore che si licenzia o che viene allontanato. E con questa considerazione, con queste considerazioni, abbiamo esaurito il tempo a disposizione per questa mattina. Io ringrazio Fabio Cantadori anche oggi in regia, anche oggi mi ha assistito in regia. Grazie come sempre a Luca Rinaldi, grazie a Margherita, a Ina, che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo, se volete riascoltare sia Magazine 24 sia qualsiasi altro programma di Radio 24, che potete collegarvi al nostro sito www.radio24.it. Con questo vi lascio, vi auguro buona domenica e a risentirci sabato prossimo.